Quella di Malvei fu la prima. Quella mattina che ero a letto e Mrs. Rubio me la portò col caffè. Stava lì in piedi a fissarmi e io le dissi di darmela e gliela indicavo. Non mi veniva la parola, una forcina per aprirla. Orchia, vecchia befana scompiacente, ce l'aveva sotto il naso con quello scopino di parrucca in testa e anche civetta, brutta com'era. 40-50 anni per gamba, il viso tutta una ruga e tirannica poi. Con tutta la sua religione, perché non aveva mai potuto mandar giù quella storia della flotta dell'Atlantico, metà delle navi di tutto il mondo e la bandiera inglese spiegata con tutti i suoi carabineros, perché quattro marinai inglesi ubriachi gli avevano portato via la rocca. E perché non andavo abbastanza spesso a messa, a Santa Maria, per far piacere a lei, e quello scialle dove si rinvoltava, eccetto quando c'era un matrimonio. Con tutti i miracoli dei suoi santi e la sua santa Vergine nera col vestito d'argento e il sole che balla 3 volte la mattina di Pasqua. E quando passava il prete col campanello a portare il Vaticano ai moribondi, si faceva il segno della croce per Sua Majestad. Un ammiratore s'era firmato. Non stavo più nella pelle. Avevo voglia di prenderlo sotto il braccio. Quando lo vidi seguirmi lungo la Calle Real, nella vetrina, ma toccata appena passando. Ma non avrei mai pensato che mi avrebbe scritto per darmi appuntamento. L'ho portata dentro il reggipetto per tutto il giorno e me la rileggevo negli angolini, mentre papà stava facendo l'istruzione per scoprire dalla calligrafia o il linguaggio dei francobolli. Cantando, mi ricordo, porterò una rosa bianca. E volevo rimettere avanti quel vecchio orologio stupido per affrettare l'ora. Fu il primo che mi baciò sotto il muro moresco, il mio bello da ragazzo. Non mi era mai passato per la testa cosa volesse dire baciare, finché non mi mise la lingua in bocca. La sua bocca era dolce e giovane. Gli strofinai contro le ginocchia parecchie volte per imparare il modo. Gli dissi, per scherzo, che ero fidanzata col figlio di un nobile spagnolo che si chiamava Don Miguel de la Flora. E lui credette che lo dovessi sposare davvero entro 3 anni. Scherzando si dice spesso la verità. C'è un fiore che fiorisce. Qualche cosa gli dissi di vero su di me, perché potesse farsi un'idea. Le ragazze spagnole non gli andavano. Mi dà l'idea che qualcuna di loro l'aveva respinto. Lo fece eccitare. Mi schiacciò tutti i fiori che avevo sul petto, che mi aveva portato lui. Non sapeva contare le pesetas e le perragordas, finché non gli insegnai io. Diceva che veniva da Capoca, sul Blackwater, ma è stato troppo breve. Quella volta, il giorno prima che partisse, maggio. Sì, era maggio, quando nacque l'infante di Spagna. Io sono sempre così in primavera, mi ci vorrebbe un ragazzo nuovo ogni anno. Lassù, in cima alla rocca sotto la batteria, vicino alla Torre Oara, gli dissi, era cascato un fulmine. E quella storia delle vecchie scimmie di Barberia che mandarono a Clapham senza coda a correre da tutte le parti, l'una a cavalcioni dell'altra, diceva Mrs. Rubio. Lei era un vero scorpione di roccia. E andavano a rubar polli alla fattoria degli Incesti. E ti tiravano sassi se ti avvicinavi. Lui mi guardava. Io avevo addosso quella blusa bianca aperta davanti, per incoraggiarlo più che potevo, senza apertamente. Cominciavano appena a farsi tondi. Dissi che ero stanca. Ci si stese là, sopra la valletta degli alberi, un posto selvaggio. Credo sia la rocca più alta che c'è al mondo. Le gallerie, le case matte, e quelle rocce paurose. E la grotta di San Michele con i ghiaccioli, o come diavolo si chiamano, penzoloni. E scale, tutto il fango che mi inzaccherava le scarpe. Sono sicura che è per di là che le scimmie scendono per passare in Africa sotto al mare quando muoiono. Le navi lontane sembravano pezzetti di legno. Quello era il postale di Malta che passava, sì. Il mare, il cielo. Si poteva fare quel che si voleva, star lì sdraiati per sempre. Li carezzava dal di fuori. Ci vanno matti. Tutto per via della rotondità. Io m'appoggiavo su di lui. Col cappello di paglia di riso bianco per fargli perdere il nuovo. La parte sinistra del mio viso è meglio. La blusa aperta. Quell'ultimo giorno aveva una specie di camicia trasparente. Gli vedevo quel petto rosa. Voleva toccare il mio col suo per un momento, ma io non volli. Dapprima fu molto contrariato. Paura, non si sa mai, tubercolosi. Oppure lasciarmi con un bambino imbarazzata. Quella vecchia serva Ines mi disse che se anche te ne entrava dentro una goccia. Dopo provai con la banana. ma avevo paura si rompesse e che si perdesse dentro di me in qualche posto. Sì, perché una volta hanno tirato fuori a una donna qualcosa che c'era rimasto dentro degli anni, tutto coperto di sali di calcio. Hanno tutti una voglia pazza di rientrare là di dove sono usciti. Sembra quasi che non arrivino mai abbastanza in alto. E poi, han belle finito con te. Fino alla prossima volta. Sì, perché finché dura è un senso meraviglioso, così morbido. Come abbiamo finito? Sì, oh sì, lo feci venire nel fazzoletto, facendo finta di non essere eccitata. Però aprivo le gambe. Non volevo che mi toccasse sotto la sottoveste. Avevo una gonna con la chiusura sul fianco. Gli ho fatto patire le pene dell'inferno prima, facendogli il pizzicorino. Mi piaceva stuzzicare quel cane dell'albergo. Rss, e wok, e wok, e wok. Chiuse gli occhi e un uccello volava sotto di noi. Era un po' timido, ma mi piaceva lo stesso, come quella mattina che lo fece arrossire un po' quando gli montai addosso in quel modo e lo sbottonai e glielo tirai fuori e tirai la pelle indietro. C'era una specie d'occhio. Sono pieni di bottoni gli uomini davanti, abbottonati alla rovescia. Molly cara mi chiamava, e lui che nome aveva? Jack, Joe, Harry Mulvey, vero? Sì, tenente, credo. Piuttosto biondo. Aveva una voce sempre allegra. Allora andai dal come si chiama per lui, qualsiasi cosa, era il come si chiama, aveva i baffi. Disse che sarebbe tornato. Dio mio, mi pare che sia ieri, e se fossi stata sposata me l'avrebbe fatto. E io gli promisi di sì, sul mio onore, che mi sarei fatta tappare di volata. Forse ora è morto, o ucciso, o capitano o ammiraglio, sono quasi 20 anni. Se dicessi Valletta degli Abeti, capirebbe subito. Se mi venisse alle spalle, mi mettesse le mani sugli occhi per indovinare chi è, lo riconoscerei subito. È ancora giovane, sui 40 forse. Ha sposato qualche ragazza del Blackwater ed è molto cambiato. Cambiano tutti. Non ha neanche la metà del carattere di una donna. Lei non sa che cosa ho fatto col suo maritino prima che lui neanche se la sognasse. E alla luce del sole, poi, in vista di tutto il mondo, si potrebbe dire. Ma aspettavo ci scrivessero un articolo sul Chronicle. Avevo perso un po' la bussola dopo, quando soffiai nel vecchio sacchetto dove erano stati i biscotti dei fratelli Benedict, e lo feci scoppiare. Dio mio, che colpo! Tutti i galli, i cedroni e i piccioni a strillare. Si tornava giù da dove eravamo venuti a mezza costa, girando dal vecchio posto di guardia e il camposanto degli ebrei, facendo finta di capire cosa c'era scritto in ebraico sulle lapidi. Io volevo sparare quella sua pistola. Lui disse che non ce l'aveva, non sapeva come prendermi, con quel berretto a visiera che portava sempre di traverso, per quanto glielo rimettessi a posto, HMS Calypso. Io facevo dondolare il cappello. Quel vecchio vescovo che parlava dall'altare, quella predica interminabile sulle funzioni più alte della donna, sulle ragazze che oggi vanno in bicicletta e portano berretti a visiera e quei calzoncini, bloomers, l'ultima novità dell'abbigliamento femminile. Dio dia a lui un po' di sale in zucca e a me un po' più di quattrini. Chissà se deriva dal nome di lui. Non avrei mai creduto che sarebbe diventato anche il mio Bloom. Quando lo scrivevo in stampatello per vedere che effetto faceva su un biglietto da visita o provandolo per il macellaio, e obbligatissima. Oh Bloom, sei il bluminosa, diceva sempre Josie dopo che ci eravamo sposati. Beh, sempre meglio di Brin, o Briggs, e Briga che ti brigo, o quei nomi atroci che finiscono in bottom, Mrs. Ramsbottom, o qualche cosa di simile. Mulvey non è nome che ci sarei andata pazza, no, davvero. O mettiamo che divorzi, Mrs. Boylan, mia madre, Dio la benedica, mi poteva anche mettere un nome più carino, Dio mio, con quel bel nome che aveva lei, Lunita Laredo. Che divertimento correr giù per Willis Road, verso la punta d'Europa, girando su e giù dall'altra parte del Jersey. Mi si scuotevano e ballavano nella blusa, come quelli piccolini di Millie ora, quando corre su per la scala. Mi piaceva di guardarmeli. Saltavo su, verso i pioppi bianchi e gli alberi del pepe per tirar giù le foglie e buttargliele addosso. Andò in India. Doveva scrivere. Che viaggi gli tocca fare a questi uomini in capo al mondo e ritorno. E il meno che possano fare. Dare una strizzatina o due a una donna, quando possono, loro che poi vanno ad affogare o saltar per aria in qualche parte del mondo. Ero salita sulla collina del mulino fino alla piattaforma quella domenica mattina col cannocchiale del capitano Rubio che era morto, come quello che aveva la sentinella. Ha detto ne avrebbe portati uno o due dalla nave. Avevo messo quel vestito del B. Marsh Parigi e la collana di corallo. Lo stretto splendeva al sole, si vedeva quasi fino al Marocco, la baia di Tangeri bianca e la montagna di Atlante con la neve e lo stretto come un fiume così limpido. Harry, Molly, cara. Pensavo a lui che era in navigazione tutto il tempo dopo a messa, quando la sottoveste mi cominciò a scendere all'elevazione. Settimane e settimane tenni il fazzoletto sotto il guanciale per l'odore di lui. Non c'era da averlo un profumo decente in tutta Gibilterra. Solo quel po' de Spagna da 4 soldi che svaporava e ti lasciava il puzzo addosso. Più che altro volevo dargli un ricordino. Lui mi dette come portafortuna quel brutto anello di Clada che diedi a Gardner quando andò nel Sudafrica, dove quei boeri l'hanno ammazzato con la loro guerra e le febbri. Però le ambuscate lo stesso, come se si fosse portato la iella dietro. Come un opale, una perla. Deve essere stato oro puro a 16 carati, perché era molto pesante. Ma che cosa si poteva trovare in un posto come quello? Le sabbie piovute dall'Africa e quella nave alla deriva arrivata in porto, Marie, la Marie o come diavolo si chiama. No, lui non aveva i baffi. Quello era Gardner, sì. Mi par di vedere il suo viso ben rasato. Frzi, Frank. Un'altra volta quel treno piagnucoloso. Quando ebbe di che furono e mai più torneranno. Chiudere gli occhi. Espirare. Labbra in avanti. Bacio. Aria triste. Occhi aperti. Piano. Pria che sul mondo calin le nebbie. Non mi va quell'in le neb. Vien d'amor la dolce canzon. E in questo ci metterò tutto il fiato, appena mi troverò ancora alla ribalta. Kathleen Kearney e quella banda di piagnucolone, mis questo, mis quello e mis quell'altro, banda di spetezze che si ficcano dappertutto a parlare di politica, ne sanno quanti miei stivali. Cosa non farebbero per rendersi interessanti? Bellezze irlandesi fatte in casa. La figlia del soldato io son, sì, sì, e voi di chi? Di un calzolaio? O di un oste? Mille scuse, carrozza, t'avevo preso per una carriola. Cadrebbero a terra stecchite se mai gli capitasse la fortuna di scendere giù per l'Alameda a braccetto di un ufficiale come me quella sera della banda. Mi brillavano gli occhi, un petto come il mio. Non hanno mica passione. Dio le benedica, poverette. Ne sapevo più io a 15 anni sugli uomini e sulla vita di quanto loro non ne sapranno a 50 anni. Non hanno l'idea di come va cantata una canzone così. Gardner diceva che nessuno poteva vedere la mia bocca e i denti quando sorridevo così. E non pensarci prima. Cosa avevo? Paura non gli piacesse il mio accento. Lui, così inglese, tutto quel che m'ha lasciato papà in barba ai suoi francobolle. Però ho gli occhi e la figura di mamma. Lo diceva sempre che ce ne sono di sudici tra quei caffoni là. Lui non era davvero così. Era pazzo delle mie labbra. Lasci che pigli marito prima e che sia presentabile. È una figlia come la mia. E guardino un po' se gli riesce ad alluzzare un tizio ben provvisto a quattrini e che non abbia che ad alzare un dito come Boylan, a farlo 4 o 5 volte, stretti l'uno tra le braccia dell'altro. E la voce poi sarei potuta diventare una prima donna. Solo che ho sposato lui... Vien d'amore la vecchia, voce profonda, mento rientrato, non troppo da raddoppiarlo. La pergola della mia donna è troppo lunga per darla come bis, sul vecchio maniero al crepuscolo. E le celebrate sale, sì, canterò 20 che soffiano dal sud, me l'ha dette lui, dopo quell'affare sugli scalini del coro. Devo cambiare quella trina sul vestito nero per mettere in valore i capezzoli. E poi sì, per Dio, voglio fare accomodare quel ventaglio grande, farle schiantare di invidia. Mi pizzica il buco tutte le volte che penso a lui. Sento d'aver voglia di... Sento dell'aria dentro. Meglio andarci piano. Non svegliarlo per averlo di nuovo addosso e sbavarmi sopra dopo che mi sono lavata tutto, pancia di dietro e fianchi. Avessimo almeno il bagno, ho una camera per me sola. Comunque vorrei dormisse per conto suo, con quei piedi freddi addosso a me. Fare un po' di posto almeno per tirare una scorreggia. Dio, o far qualcosina. Un po' meglio, sì. Tenerli così, un po' sul fianco. Piano, pianino. Oh. Ecco il treno lontano, pianissimo. Ancora una canzone.